Fuga. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il numero più importante di persone che rimarranno in casa in questo periodo estivo sono anziani. Il numero più importante di persone che vengono truffate proprio perché sono sole a casa sono anziani. Esiste una sorta di creatività che fa sì che metta a punto dei format per truffare gli anziani. Sempre nuove maniere, sempre nuove forme per andare a infilarsi in maniera subdola laddove c'è una richiesta di attenzione, c'è una richiesta di una parola di comprensione. Insomma, l'anziano è la vittima privilegiata di ogni truffatore. Oggi vi spiegheremo come. Il meccanismo della truffa è sempre lo stesso: affabilità, cortesia e ottima capacità dialettica. Gli anziani finiscono nella rete dei truffatori che riescono a raggirarli con estrema facilità. Spesso basta fare il nome dei figli, parlare di debiti da saldare o millantare un rapporto di amicizia per farsi consegnare somme di denaro anche importanti. Come truffatori senza scrupoli riescono a sfilare anelli, braccialetti, orologi dai polsi, soprattutto degli anziani, con alcuni trucchetti, facendo provare ad esempio una crema. Grillo dice che è tutta colpa dei pensionati, può anche essere, non ha avuto i voti che voleva. Però i pensionati, poverini, hanno una vita non certo facile, ma ancor più resa difficile dal fatto che sono presi di mira, più che ogni altra fascia della popolazione, da ladri, truffatori, sgrassatori, piccoli criminali che sembrano usciti da dei vecchi film con Totò e Peppino. Leggo un pezzo sulla Stampa di qualche giorno fa di Stefano Rizzato, porta qualche cifra. Sono 55.602 vittime, gli over 65, che nel 2013 hanno subito truffe. C'è stato un aumento del 7-8% rispetto agli stessi reati dell'anno precedente. Tanto che è stato deciso dall'ANAP Confartigianato e dal Ministero degli Interni di fare una giornata nazionale della truffa contro l'anziano, che è passata il 17 maggio. Ve ne siete accorti? No, probabilmente no, forse nemmeno le persone che sono nel mirino di queste truffe. Ne abbiamo spesso parlato, anche perché è importante parlarne, perché cambiano continuamente, c'è una grande fantasia, c'è una sorta di creatività che meriterebbe miglior causa e miglior applicazione. Abbiamo una televisione che fa pena, ma abbiamo una grande fantasia nel truffare gli anziani. Rizzato racconta l'ultimo tipo di truffa, e bisogna dire che è importante raccontarla perché è sempre più frequente. Suona il telefono a casa dell'anziano, mentre io chiamo casa dei nonni intonti, e dico: ciao nonna, sono tuo nipote. Lei dice: ah, ciao Fabrizio, così subito so come si chiama il nipote. Ciao nonna, sono Fabrizio, sai, c'è una grande occasione, sono a un'asta, un'occasione unica, sto per comprare una casa, guarda, mi mancano solo 5.000 euro e un altro pochino di cose, anche gioielli, cose così, per favore dai, prendimeli nonna, sii gentile, compro questa casa fantastica, poi ci porto i gatti, ci porto il nonno. La nonna dice: figurati figlio, dimmi che devo fare. Cioè, vai in banca, prendi i soldi, portavi anche un po' di gioielli, un po' d'oro, poi ti mando un amico mio e chiaramente gli dai tutto. Dice: ma ti faccio chiamare col cellulare, io cellulare scarico, non ti preoccupare, dai, ti richiamo io. I nonni vanno, prendono i soldi, prendono il cash, prendono i gioielli, se li mettono in un bel sacchetto, prendono appuntamento con l'amico del nipote, gli danno, compra una bella casetta, mi raccomando. E naturalmente di tutto questo poi non rimarrà più nulla. Sono andato a pigliare tutto li sono andato a pigliare. È entrato in casa, mi ha cominciato a dire: guardi, noi abbiamo dei macchinari che si depura l'acqua. Sì, però dice: senta signora, questo macchinario distrugge le cose d'oro, se c'ha qualcosa, l'oro, l'argento. Dice: guardi, se c'ha, metta tutto in un sacchetto. Allora io ho preso tutto il che c'avevo, e poi lui mi dice: senta, anche soldi, ma non mi venire in mente, anche soldi hanno la filagrana con questo macchinario e si cose, si avete capito, ti vendono la macchinetta per depurare l'acqua. Poi ti dicono: attenzione, c'hai prezioso in casa, metti tutto in un sacchettino, perché sennò questa macchina te li distrugge l'oro. Guarda caso, il depuratore di acqua va a filtri metafisici che distruggono l'oro. Metti tutto questo bel sacchettino, naturalmente, dentro il calzino con i gioiellini di tutta la vita, non si troverà più niente. 800 24 00 24. Siete a conoscenza di nuove truffe nei confronti di anziani? Le avete subite? Qualcuno della vostra famiglia ne ha subite? Raccontatele, per questo è il momento. Bisogna raccontare come si sta evolvendo il format truffaldino ai danni dell'anziano. Fabio Menicacci, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Segretario nazionale ANAP Confartigianato, e com'è proprio voi vi occupate di queste truffe degli anziani? Siete voi che avete istituito la giornata nazionale? L'ANAP è l'associazione che raggruppa gli anziani e i pensionati che si riconoscono poi nel sistema, ecco, di Confartigianato. Quindi diciamo voi li tutelate anche oltre, diciamo... Noi vediamo come sindacato, non è la prima campagna che facciamo, facciamo quella dell'Alzheimer per la prevenzione ormai da 8 anni, altre mirate per la terza età. Da quindi diciamo anno, rispetto all'appannamento fisiologico di una persona anziana si stanno scatenando, che probabilmente è la fascia di popolazione più facile essere aggredita. Sì, l'abbiamo fatto presente anche in presentazione della giornata. Cioè, gli anziani sono i più deboli da un punto di vista fisico e a una certa età anche da un punto di vista psicologico e psichico. E certamente la crisi ha acuito, come lei ha ben presentato, anche l'immaginazione e l'invenzione di chi truffa. Ecco, io vedo che c'è una doppia infamità nella banale infamità di chi truffa una persona debole. Giocano anche sul fatto che ogni filo emotivo che si riallaccia per un anziano, spesso solo, lasciato alla famiglia, un nipote che telefona, è una festa. Non stanno in quel momento a pensare il nipote gli chiede 5.000 euro. Però sono talmente felici che chiami un nipote, che se poi quel nipote è un truffatore. Quindi si gioca anche su una ricerca molto triste, molto violenta. Guardi, e molto vigliacca della propria vittima. Se mi permette di interromperla, noi tra le parole che abbiamo lanciato durante la campagna, e devo dire che il 17 è stata la giornata nazionale contro le truffe. E che è successo? Ma da parte giorno? Nostra sta continuando una campagna perlomeno per tutto il periodo. Ma dico il 17, cos'è accaduto? Noi abbiamo fatto all'interno delle nostre sedi oltre 80 convegni di formazione e informazione aperti agli anziani. Quindi voi fate training continuo agli anziani, sì, per spiegarlo. È stato distribuito un opuscolo che è nato dal meraviglioso accordo, io dico, tra un'associazione sindacale, i comandi generali delle forze di polizia, di finanza dei carabinieri, la polizia criminale e il Ministero dell'Interno, per cui è una campagna che è sentita sia da noi che dalle forze dell'ordine. Stiamo facendo ora una distribuzione di altre 200.000 copie di questo opuscolo che in maniera molto semplice, rivolgendosi agli anziani, li avvisa e li allerta rispetto a possibili truffe. È stato messo in piedi un pieghevole ancora più semplice che può essere portato appresso in ogni momento. Però due cose sono fondamentali. Fermo un attimo, scusi Fabio Manicacci, subito chiamo un'ascoltatrice così gli diamo a lei degli elementi anche di confronto con la realtà. Paola, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Io, non l'ho subita proprio io, ma la sua ho amica. Notizia, una di queste truffe è stata tentata con mio marito, un'altra con una mia cugina, una mia parente. E la modalità è stata questa del sono tuo nipote, proprio esattamente come avete detto voi, e di fronte a una cosa del genere per telefono si cade facilmente, no? È molto facile dire. Sì, anche perché il telefono ha la voce alterata. Poi naturalmente. Il nipote lo sentiranno una volta l'anno quando viene lì a chiedere il regalino per Natale. Quindi, ma certo, soprattutto parenti, non so, noi abbiamo dei nipoti che non abitano a Milano e quindi è molto facile che succeda questo. Però devo dire che sia mio marito, che adesso ne ha 84 e ne aveva 83 non c'è caduto. No, quando ha sentito parlare di soldi ha strizzato. Qua il nipote era la stessa cosa, sono tuo nipote e batteva soldi, chiedeva soldi. E che diceva, parlava, aveva bisogno di 10.000 euro perché si trovava in... Sì, esattamente la modalità è quella che avete descritta voi, aveva un'occasione speciale che non doveva perdere, e la stessa cosa è stata con la mia parente a cui è stato telefonato a nome di mio figlio, che si chiama Virgilio, poi naturalmente quando questo nome è stato usato... È perché io dico, ciao, sono tuo nipote, io dicevo, ciao Virgilio, come stai? Prima di tutto il nome è stato carpito, poi è stato usato, e lì era questa persona che chiamava, che si presentava come Virgilio, diceva di essere dal notaio e di stare facendo un rodito importantissimo, di avere bisogno di... E gli mancavano proprio 10.000 euro. Come avete detto voi... Anche questa signora molto sveglia, insomma, devo dire. Anche difficile, uno va dal notaio e non c'è soldi in tasca per fare il rogito. Esatto. Il notaio, quindi, prima vuol vedere i soldi, poi comincia a scrivere. Se non funziona, sì, così. Grazie, sì. Paola, grazie. Fabio Menicaccia, sentito, eccoci, abbiamo iniziato, sì, da 5 minuti. Già la casistica è immediatamente possibile registrarla in una testimonianza reale, concreta. Sì, le dicevo, il dato fornito anche da voi dell'aumento dell'8% medio purtroppo delle truffe è minimo rispetto al fenomeno. Perché poi non lo, poverini, perché si vergognano. Purtroppo molti anziani non denunciano poi il fatto, si vergognano, proprio perché cioè, psicologicamente più fragili pensano, cioè perché si sentono in colpa, se lo sento in colpa, poi qualcuno viene in colpa. Difatti noi una delle parole chiave della campagna era proprio vigliaccheria, perché crediamo che chi si approfitta di persone anziane, di una persona più vulnerabile o più fragile è un vigliacco. È un vigliacco perché, come si dice, non perché i nonni siano sacri, ma perché approfittarsi di una persona che momentaneamente non ha affetti vicino, che magari, come diceva lei, basta un semplice buongiorno del nipote, ciao nonno, che apre uno spazio nell'animo incredibile, approfittarsi da vigliacchi, credo che se ne ragionava anche con le forze di polizia, dovrebbe la truffa agli anziani o comunque i reati commessi nei confronti degli anziani, come dei bambini, avere punizioni più adeguate. Sentiamo Stefano. Stefano, buongiorno. Che è successo buongiorno alle sue zie? Allora, le mie zie, di tre zie, 86 anni, 82, 80 anni, quest'inverno ricevono una telefonata da una persona che si spaccia per sua nipote, mia sorella, e la quale racconta che ha avuto un incidente in macchina e che la macchina è distrutta e che servono dei soldi per acquistarne una nuova, che non vuole dirlo al marito e che quindi di non dire niente a nessuno, di se riuscivano a dargli dei soldi, a prestargli dei soldi. E come andrà a finire? Le mie zie prontamente escono, vanno in banca, chiedono questi soldi, fortunatamente avevano dei soldi impegnati, la banca non è riuscita a darglieli, e passano dei giorni, questi non si sono più fatti sentire, dopodiché mi avvisano, ovviamente non dicono niente a nessuno, io sono lì tutti i giorni, e fortunatamente è andata bene, nel senso che non sono riusciti. Ecco, se avessero avuto i soldi disponibili del banca, oddio, c'è da dire che oggi allo sportello delle banche, quando viene un anziano e chiede grosse somme, cercano in qualche maniera, con delicatezza se possono, almeno di questo ho visto testimonianza, di cercare di essere sicuri, di capire come mai chiede all'improvviso, lo chiedono a chiunque oggi, perché chiunque vada a prendere una cifra grossa, 10.000 euro insieme cash a una banca, ti dico, ma che ci devi fare? Un anziano poi, che lo vedi in una situazione già psicologicamente precaria, è più facile che glielo chiedano. Melog, cronache meridiane. Persone fragili, ingenue e spesso sole. Un bersaglio facile per truffatori e imbonitori, a colpo sicuro. Sono gli anziani delle nostre città le vittime di truffe e raggiri perpetrati da finti addetti del gas, sedicenti operatori del comune o falsi rappresentanti delle forze dell'ordine che senza scrupolo bussano alla porta di casa. Questo è vero, io che passo molti pomeriggi nel mio studio, che è in un palazzo abitato soprattutto da anziani, devo dire che ogni pomeriggio puntualmente suona qualcuno che deve comunque parlarmi di una bolletta, di un cambio di contratto e via dicendo. Io li guardo e li lascio parlare, ormai ho capito la tipologia. Una volta ho detto, entri, richiamo un attimo la polizia, così mi spiega. Ha cominciato a correre giù per le scale, chissà quale grande occasione avrà provato a vendere. Ma io vedo che ho molti anziani vicino a me e che ogni giorno sono tartassati da queste persone. Hanno anche dei finti cartellini di riconoscimento, dei pass, non sa bene cosa vogliono. C'hanno sempre il volto sorridente. Più che truffatori, molti sono dei poveri disgraziati, non hanno altra maniera per tentare comunque di fare qualcosa che assomiglia a un lavoro, e sanno benissimo che se proprio non è una truffa, comunque è una indebita firma su un contratto che porterà solo danni a quell'anziano. Allora, abbiamo al telefono Lia, ascoltatrice Lia, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Dunque, io volevo riportare un'esperienza molto simile a quelle precedenti di mia mamma. Tengo a precisare che mia mamma non è un'anziana sola, nel senso che vive con una badante, hanno due figlie femmine a Milano, che quindi la vediamo regolarmente, la sentiamo tutti i giorni, è sveglissima nonostante solo 89 anni, quindi è in grado assolutamente di non aprire a sconosciuti e tutto quanto. Però nell'arco di un anno praticamente ha ricevuto due telefonate simili a quelle già citate, dicendo sono tuo nipote, ma col nome del nipote. Quindi queste persone che hanno telefonato sapevano esattamente il nome del nipote. Lei però si è messa subito sull'avviso e ha cominciato a dire, ma hai una voce strana, e questo ha detto sono raffreddato, mal di gola, ma tu come ti chiami di cognome? A quel punto lì questo qua si è spaventato e vabbè. Io volevo sapere, noi abbiamo avuto il dubbio dopo la seconda telefonata, se allertare la polizia, perché in questo caso non so, chiedere se si possono esserci dei controlli. Poi ci è venuto il dubbio e mi hanno detto: beh, ma se telefonano da una cabina telefonica piuttosto che da... Ma esistono ancora le cabine, signora? Non lo so, no, oppure da un telefono dove metti anonimo, cioè dove anonimizza il telefono. Ecco, ma questa adesso lo domandiamo al nostro ospite. Lo domandiamo al nostro ospite, però vorrei sentire prima anche Valli, un'altra ascoltatrice. Valli. Buongiorno. Io volevo raccontare di mia mamma, che 4-5 anni fa, mia mamma ora ha 89 anni, e sono andati per fargli un controllo del gas. Il caso vuole che proprio il giorno prima stavano scavando nella via vicina per una perdita di gas, erano andati a fare il controllo, uno in tuta, con un cappellino, con la visiera, e così l'ha fatta entrare. Poi dice: guardi, deve mettere tutto l'oro in un posto. E poi lei, dopo insomma, che insomma si è fatta, mentre l'ha mandata in un'altra stanza a controllare la presa, non so che, ha sentito un rumore, che questo ha preso la cosa e se n'è andato con tutto l'oro che lei aveva messo sopra il letto, perché non doveva stare lontano, perché c'era pericolo con... Quindi il gas. Quindi è sempre la storia della macchinetta che corrode l'oro, tanto bene, l'aveva messo sopra il letto. Sì. E così poi lei è rimasta scioccata, perché piangeva, come ho fatto a farmi imbrogliare così? E insomma, non l'ha voluto raccontare a nessuno all'infuori di noi figlie, e ha fatto anche la denuncia, però naturalmente lei non si ricordava neanche più, secondo me l'avevano tipo ipnotizzata, perché lei era sempre, diceva: ah, io tanto non faccio entrare nessuno, come fanno questi vecchi, sono anche rimbambiti. Vabbè, ci sono delle tecniche probabilmente di convincimento, sì, di secondo me sì, perché proprio lei non si ricordava quasi più niente, non mi ricordo bene. Perché c'è stata una rimozione di fronte alla vergogna, tutta la vita avrà accumulato con fatica quei gioiellini passati di famiglia di mano in mano, sì, e il presente glieli portano via. Ma poi era molto, stupida. Era stato quasi un chilo. Mirella, mi sentiamo Mirella. Buongiorno, Mirella. Grazie, buongiorno. Oggi sono svegliate le ascoltatrici, sulla truffa sono sensibili. Mirella. Buongiorno, io riporto soltanto l'accaduto ad una vicina di casa di mia mamma. Lei invece le hanno citofonato. In modo molto agitato le ha detto: signora, scenda subito, suo marito l'hanno appena portato al pronto soccorso. Fortunatamente il marito di questa signora era tranquillo sul divano che dormiva, e quindi la signora ha risposto: ma come, mio marito è qui che dorme? Un'altra vicina di casa lo stesso giorno aveva notato una persona sconosciuta nella tromba delle scale, quindi se la signora avesse abboccato, perché non aveva lì il marito e fosse usciva e l'altro entrava, esatto, sì, sicuramente. Ah, ecco, sicuramente così. Allora, Fabio Menicacci, facciamo un po' il punto. Segretario nazionale ANAP Confartigianato. Ha visto tutte le notizie che abbiamo letto nei giornali, vengono confermate a tempo reale da persone che hanno vissuto il caso. La risposta con l'ascoltatrice, vale la pena di chiedere, di avvertire che è stata fatta questa telefonata, o è totalmente inutile? Guardi, il consiglio che noi diamo, perché poi quello che stiamo tentando di fare è di ricostruire un po' quella rete solidale che manca da un po' di tempo. Perché la rete solidale di vicini, eccetera, può aiutare anche l'anziano in questi frangenti. Però la cosa più semplice è chiamare i numeri del 113, 112 e 117. Questo fa sì che è vero che magari in quel momento la persona se ne vada, il truffatore, però fa sì che la polizia riesca ad avere un quadro più completo e le forze dell'ordine... almeno diciamo sott'occhio la transumanza, in quel quartiere ci hanno fatto 10 telefonate, vuol dire che qualcuno si muove. Sì, qualcuno si muove. Tenendo presente una cosa, che purtroppo il più delle volte vengono preparate queste cose, non sono spontanee da parte dei truffatori. Basti ricordare il caso degli arresti che sono avvenuti 10 giorni fa a Roma, di quella banda che in un anno aveva truffato circa 1 milione di euro. Vedeva le vittime, le seguiva, cercava di informarsi, quando aveva tutte le informazioni agiva, per cui conosceva nomi, cognomi dei nipoti, dei figli, erano truffe ben preparate. Diciamo che oggi abbiamo talmente tante fonti aperte disponibili. Difatti una delle cose che noi mettiamo anche nell'opuscolo e che nelle giornate di informazione diciamo agli anziani, che stanno diventando anche loro internauti sull'utilizzo del computer. Attenzione anche al computer, attenzione a non dare la password, attenzione a non fare spese con la carta di credito, con il banco posta, attraverso i canali di internet, perché anche lì le truffe sono nascoste. C'è questo aspetto, sì, perché ormai... Però se noi riusciamo, vanno denunciate. Noi diciamo che l'anziano deve trovare il coraggio psicologico, se è stato truffato, di farlo presente alle forze di polizia. Perché aiuta anche i suoi colleghi. Aiuta, senso, aiuta altre persone a sapere cosa è successo, per cui altre persone non rischiano di cadere nella stessa rete. E se si riesce, manca molto, negli anni passati ci è avvicinato il quartiere o il palazzo che tutti si conoscevano. Oggi purtroppo in un palazzo c'è il rischio che chi abita al primo piano non conosce chi sta all'ultimo piano, neanche alle riunioni di condominio. Se si ricrea la rete solidale diventa più semplice bloccare anche le truffe a danni delle persone anziane, perché è anche da far presente che nessuna azienda di quelle conosciute, elettriche o di altro tipo di energia, senza avviso manda delle persone. Se questo lo dicono, metto dei cartelli, ma li assicuro, perché l'ho visti, sono molto bravi, molto gentili, molto affabili, sono tutti dei potenziali nipotini e l'anziano, si sa, è solo e si intenerisce. La ringrazio, Fabio Menicacci, attenzione, state all'occhio, comunicateci, ci sono nuove truffe e noi ve le comunicheremo.